Radio 24 Reportage. Atene, Europa, la deriva di un continente, di Dario Ricci. Dopo aver quasi affossato l'Europa con la crisi del debito e rischiato la bancarotta di Stato, la Grecia boccia alle urne i partiti pro-austerity, apre le porte in Parlamento all'estrema destra e alla sinistra radicale. Contro l'Europa, contro Angela Merkel, contro il Fondo Monetario Internazionale e i sacrifici imposti per risanare il debito, contro la propria classe politica. Stavolta la rabbia del popolo greco non si è sfogata per le strade di Atene, ma nell'urna elettorale. Le elezioni politiche del 6 maggio hanno frantumato lo scenario. Crollo a due cifre per i partiti tradizionali, il centrodestra di Nea Democrazia e i socialisti del PASOK. La sinistra radicale, il partito Syriza di Alexis Tsipras, seconda forza parlamentare. E nel Parlamento entrano anche i neonazisti di Alba Dorata. Un mix esplosivo che rischia di portare il paese alla paralisi e fuori dall'Europa e dall'euro. Dalla finestra dello studio di Ioannis Xamichas, avvocato e presidente della Camera di Commercio Italo-Greca, entrano le musiche malinconiche che in questi giorni risuonano per le strade di Atene. Xamichas non ha dubbi nel leggere il voto del 6 maggio. Per me è un voto di punizione contro il sistema politico greco, particolarmente ai due partiti politici della Nuova Democrazia e della PASOK, Partito Socialista, e centrodestra, potrei dire, per la Nuova Democrazia. Un voto di punizione perché erano i partiti che hanno governato la Grecia dal 1974 fino ad oggi. Erano i partiti e i sviluppi, la proiezione dei vecchi partiti di Συναγερμός e di Ένωση Κέντρου e della Centro. Sono stati ritenuti responsabili dal popolo greco e perciò sono stati puniti con questo crollo delle loro percentuali. Dove porta questa punizione? Non lo so. È un messaggio però forte anche per la Germania, che non può giocare questo momento altro con l'austerità, con il popolo greco. Panagiotis Pantelis è il più celebre fiscalista greco, responsabile guida di Ecofan, centro europeo di analisi economica e fiscale. Mentre sorseggia il suo caffè e si accende l'ennesima sigaretta, prova a vedere il nuovo che avanza nell'esito dell'urna. Io penso che ci dovrà esserci un cambiamento, penso che il positivo è questo. Penso che c'è gente nuova, gente giovane che è entrata nella politica e potrà cambiare questa situazione greca. Almeno per quanto mi riguarda sul settore mio fiscale, io negli ultimi anni non vedevo nessun governo, era tutto lasciato a sé, nessuno non si era occupato, come per esempio lo Stato doveva incassare dei soldi. Allora non penso che fino a ieri avevamo un governo, almeno su quello che mi riguarda, e da oggi in poi non l'avremo. Ovviamente penso che la situazione sarebbe migliore di quella che è stata finora, almeno psicologicamente per il popolo greco. Voto di protesta quindi, certo, ma l'80% dei greci non vuole rompere con l'Europa e con l'euro. Stavolta però la protesta ha avuto la meglio sulla strategia politica, come ci spiega Massimo Romagnoli, deputato del PDL e presidente del gruppo parlamentare italo-ellenico, che vive a Glifada, pochi chilometri da Atene. Ma quando tu vai a votare, Alba Dorata, personaggi che sicuramente saranno di contrasto in Parlamento, o vai a votare delle persone che non amano il rapporto con l'Europa, tu vuoi fare un taglio col passato. Non dimentichiamoci che se in questo momento la Grecia sta sopravvivendo anche alle ingenti somme di denaro che sta versando l'Unione Europea al popolo greco. Non dobbiamo dimenticare che neanche, io sono qua dall'89, che tutti i progressi che sono stati fatti grazie all'entrata nell'Unione Europea. La sinistra radicale di Syriza e l'estrema destra di Alba Dorata hanno vinto dove i partiti tradizionali hanno fallito, nello stare vicino alla gente in questi anni di sacrifici e tasche sempre più vuote. Alba Dorato negli ultimi due anni, visto e considerato che c'è un grosso problema con l'immigrazione qui in Grecia, in cui la gente oggi ha paura di camminare per strada, soprattutto i più anziani, loro hanno fatto una politica casa per casa, prendevano i vecchietti, li accompagnavano in banca, gli facevano prendere la pensione e li riportavano a casa, prendevano i vecchietti, andavano con loro a fare la spesa e li riportavano a casa, proprio stavano in mezzo alla gente. Se c'era un problema, la polizia non li difendeva, chiamavano Alba Dorata e risolveva il problema. Tsipras che ha fatto? È andato in tutte le scuole e stava vicino agli studenti, quindi cercava di creare dei nuclei all'interno delle università, all'interno delle scuole superiori, delle scuole professionali, e questo alla fine l'ha premiato. Mentre quelli di Nuova Democrazia e di PASOK se ne andavano in televisione a fare il talk show, Tsipras e Alba Dorata stavano in mezzo alla gente. Lontano dalla capitale, in provincia, l'eco del voto non arriva meno attutita. Ma qui si sta facendo largo, seppur a fatica, una generazione di sindaci eletti in liste indipendenti dai partiti tradizionali. Giorgio Saidonis è stato già in due occasioni a guida di Olimpia, la culla dei giochi, nell'Elide, regione del Peloponneso nord-occidentale. Aidonis è pronto a ricandidarsi come primo cittadino del piccolo centro e guarda al governo italiano di Monti come modello da imitare. Il popolo credo che questa volta ha votato con troppa rabbia, era arrabbiato e ancora arrabbiato perché abbiamo la crisi, ma tante volte di più dalla vostra. E personalmente credo che non sarebbe il meglio di ripetere le elezioni, perché i risultati saranno un po' uguali o aumenteranno di nuovo i 2x grandi partiti. Però credo che sarebbe per tutti meglio di fare un governo come il vostro, come quello di Monti, con tutti. Niente da fare, almeno per ora. Si tornerà alle urne. Bocciata la classe politica, dalla società civile arrivano però anche altri impulsi al cambiamento. Magari chiamarlo il Beppe Grillo greco è un po' eccessivo, ma Dimitris Bouradas sorride compiaciuto quando lo incontriamo nei pressi di Piazza Sintagma all'ombra del Parlamento ellenico ad Atene e gli riferiamo del successo del Movimento 5 Stelle nelle amministrative italiane. Να επιτύχουν την ανασυγκρότηση της χώρας. Lui, Bouradas, è animatore di Società di Valori, un cartello di intellettuali che punta alla riscoperta di valori della pre-politica, dalla partecipazione alla trasparenza, e che caldeggia un'alleanza economica tra i paesi mediterranei per fronteggiare, uniti, la crisi. Conti che non tornano, bilanci da sanare, una moneta, l'euro, da salvare. Ma forse il danno più profondo per l'Europa, parola greca, amara ironia, che vuol dire ampia visione. Spaccata tra Germania e Grecia era una nuova pangea culturale, una rinnovata deriva del continente che riapre ferite mai rimarginate, come sottolinea Massimo Romagnoli. La Germania, la Francia stanno facendo una guerra, una volta la guerra si facevano con le armi, adesso si fanno economicamente. In Grecia c'è una forte influenza tedesca, e per cui io penso che i problemi principali sono proprio arrivati dal nord Europa. E questa alleanza che si cerca di trovare, io lo vedo anche tra gli europarlamentari, anche in Europarlamento, per qualsiasi azione che fanno alleanze in Europarlamento, gli spagnoli, gli italiani, i maltesi, i ciprioti e i greci, proprio per questo motivo. C'è una battaglia per evitare che ci sia un'Europa a due velocità. E l'Europa, mi creda, se non cambia strategia, non serve a nulla. Tra le strade del mercato di Monastirachi si respirano profumi, odori, si sentono i suoni della Grecia che pulsa e che vive, ma si respira anche l'atmosfera di incertezza che caratterizza in questi giorni il paese. Qualunque sia la soluzione politica che verrà trovata e che verrà messa in campo, la Grecia ha bisogno di certezze, di riscoprire i propri fondamentali economici, ma soprattutto di riscoprire i propri fondamentali culturali per tornare a recitare un ruolo da protagonista